segnali stradali. La vita è un percorso nuovo per tutti. Essa è simile ad una strada nella quale vi sono pericoli e cose che noi non conosciamo. Anche la vita cristiana è un percorso a noi sconosciuto, e anche per questo viene definita vita nuova. Romani 6.4. Vi sono pericoli e tante altre cose che dobbiamo sapere in anticipo. Come gli uomini hanno pensato di avvertire gli automobilisti con dei cartelli stradali? Così, Dio ha pensato di farci sapere quello che incontreremo nel corso della nostra esistenza. Con la Bibbia. Il codice stradale del cristiano. In essa troviamo avvertimenti, richiami di pericoli, esortazioni, indicazioni. Eccone alcuni. 1. Stop Salmo 46, 10. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. Lavoriamo, divertiamoci e occupiamoci della faccende della vita, ma dobbiamo anche imporci del tempo per meditare le cose che hanno un valore eterno. Se non ci fermiamo spontaneamente per riflettere Colossesi 3.2 ci fermerà Dio. 2. Divieto di accesso Ebrei 3.7-11. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi, erano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai, nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Il cielo non è un luogo dove tutti possono entrare. Solo coloro che avranno ubbidito a Dio potranno godere delle cose celesti, gli altri staranno fuori. Apocalisse 22.15. 3. Divieto di sosta Salmo 1.1. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Il cristiano non può evitare di camminare in questo mondo, di aver contatto con gli altri, ma deve evitare, con un atto di volontà, di imitare il male compiuto da coloro che non ubbidiscono a Dio, i quali sono chiamati empi o peccatori. Inoltre deve meditare, cioè riflettere intensamente sulla legge di Dio, per metterla in pratica. Giacomo 1.2225. 4. Strada sdrucciolevole. Proverbi 19.3. La stoltezza dell'uomo rende la sua via sdrucciolevole e il suo cuore si irrita contro l'Eterno. Coloro che camminano senza tenere presenti i comandamenti di Dio scivolano e cadono rovinosamente. Il Salmo 15 spiega come dobbiamo comportarci per rimanere in piedi. Imparalo a memoria. 5. Pronto soccorso Salmo 118.7. L'Eterno è per me fra quelli che mi soccorrono, e io guarderò trionfante sui miei nemici. Le difficoltà della vita non mancano. Per questo abbiamo sempre bisogno di essere soccorsi, protetti, curati, incoraggiati. Colui che ha scelto Gesù Cristo ha un medico che lo consola e gli cura le ferite. Giobbe 5.1.8. 6. Pericolo d'incendio Giacomo 3.5-6. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Postacom è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita, ed è infiammata dalla genna. Se non siamo prudenti nel parlare, possiamo provocare molto danno. Non solo. Con la lingua possiamo influenzare anche gli altri e, così, di bocca in bocca, una maldicenza o un parlare impreciso può spandersi perfino in tutto il mondo. 7. Limite di velocità Proverbi 19.2. Chi va a passi frettolosi sbaglia strada. Spesse volte, anche per zelo, prendiamo decisioni affrettate, Ma, il più delle volte, una giusta decisione è il risultato di una seria, ponderata e sofferta riflessione. 8. Dare precedenza a Matteo 6,33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Nella vita non possiamo fare tutto. Un giorno è composto di 24 ore e quindi siamo costretti a fare delle scelte. Se noi diamo precedenza alle cose di Dio, dimostriamo non solo di dare valore a quello che Dio dice, ma dimostriamo di amarlo veramente. 9. Senso unico Giobbe 7. 9. Chi scende nello Sheol non risale più. Non si può ritornare indietro quando si è morti, se non quando Dio vuole. La vita è come una moneta, la si può spendere come si vuole, ma una volta sola. Questo pensiero ci deve spingere a fare le cose giuste subito, consci di non aver poi altro tempo per tornare indietro e recuperare gli errori. Al massimo possiamo ritrovare il tempo perso, Efesini 5.16, Colossesi 4.5, vissuto senza Dio. Efesini 2.12. 10. Doppio senso Proverbi 26, 4 a 5. Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, per non diventare anche tu come lui. Rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza, perché non creda di essere saggio. Mai portare una verità all'estremo. A volte occorre avere comportamenti opposti. Spesso i litigi sono il risultato dell'avere una unica visione della verità. Noi possiamo vedere una giusta direzione e possiamo avere una idea equilibrata quando siamo capaci di considerare contemporaneamente i possibili ulteriori aspetti di una stessa verità. Ricordati, gli assoluti appartengono solo a Dio. 11. Divieto di sorpasso Matteo 6,34. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Il domani non ci appartiene. Preoccuparsi significa coprire il sole di oggi con le nuvole di domani. E il timore non è altro che l'abbandono degli aiuti apportati dal ragionamento. Dio ci vieta di preoccuparci di quello che non sappiamo e ci ordina di temere solo Lui, Matteo 10.28. Perciò, la cosa più saggia è vivere col peso prodotto da una giornata. Se siamo riconoscenti oggi, il domani sarà meno pesante. 12. Inversione di marcia Geremia 8:4. Se uno cade, non si rialza forse? Se uno si svia, non ritorna forse? Tutti sbagliamo in molte cose e in molte maniere, Giacomo 3:2. Perciò, l'importante non è non sbagliare, ma sapersi alzare e ricominciare da capo, lasciando la strada sbagliata per imbroccare quella giusta. Solo l'orgoglio impedisce di riprendere il cammino. 13. Centro abitato Giovanni 14:2. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Gesù ha parlato spesso del cielo. Esso non è uno stato dell'anima, ma un luogo dove saremo con Gesù. Abiteremo con Lui. Staremo con Lui in un luogo che Lui stesso ci sta preparando. Aspetto di vederlo. E tu? 14. Caduta Massi Proverbi 28-22. L'uomo con l'occhio cattivo vuole arricchire in fretta, ma non si rende conto che gli piomberà addosso la miseria. L'invidia è un brutto peccato. Tutti vorremmo quello che non abbiamo, ma colui che non è riconoscente per tutte le buone cose possedute sarebbe certamente infelice anche se possedesse tutte le cose desiderate. A colui che non si accontenta di quanto ha, ma vuole a tutti i costi di più, cadranno in testa tante disgrazie e, alla fine, la miseria. 1 Timoteo 6.9-10. 15. Circolazione rotatoria Ecclesiaste 1.6. Il vento soffia verso il mezzogiorno. Poi gira verso settentrione, gira e rigira continuamente. E ritorna a fare gli stessi giri. La vita è sempre quella e monotona. Le cose succedono sempre nello stesso modo, e tutto è vano se non esiste il timore di Dio. Ecclesiaste mezzogiorno e un quarto. 16. Divieto di svolta Filippesi 3, 13-14. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta. Verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ci sono momenti nella vita quando la cosa più saggia è non guardare al passato ma rimanere con gli occhi fissi in avanti per guardare al premio promesso da Dio per coloro che lo amano. Gesù disse: nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 9.62 17. Raffiche di dentro Efesini 4.14. Affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. Il mondo pullula di religioni. L'importante non è avere una fede, ma riporla giustamente. Riporre fede in Gesù significa credere a colui il quale ha dichiarato di essere la via, la verità e la vita. Nessuno ha mai parlato come lui. Giovanni 7.46. 18. Accendere i fari Filippesi 2, 14-15. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio. Senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, tra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Chi ha posto fede nel Figlio di Dio ha la responsabilità di dimostrare al mondo che egli è un seguace della luce, cioè di Gesù Cristo. 1 Pietro 3.15. 19. Tunnel o galleria Salmo 84.6. Quando attraversano la valle di Baca, la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizioni. Dio non ha promesso ai suoi una vita facile. Marco 10.30, Filippesi 1.29. Anzi, ha garantito lotte e sofferenze. Ma, in seguito, ha detto che la sofferenza è un mezzo per essere benedetti e per benedire gli altri. Giobbe 36.15. Passato il tunnel, tutto avrà un senso e uno scopo. 1 Corinzi 13.12. 20. Strettoia Matteo 7.14. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Il sentiero che porta alla vita eterna e la porta per entrarvi sono stretti. Questo denota come sia difficile essere perseveranti e quanto poco si sia invogliati, a causa della propria natura corrotta, a incamminare in esse. Colossesi 3.5. 21. Silenzio Lamentazioni 3, 26-28. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Buona cosa è per l'uomo portare il giogo nella sua giovinezza. Sieda solitario e stia in silenzio quando Dio glielo impone. Ci sono momenti e periodi della vita nei quali occorre avere un particolare orecchio per udire la voce di Dio. Occorre fare silenzio dentro di noi, un silenzio prodotto anche dal digiuno, dagli svaghi e dal divertimento, cioè dal normale corso della vita. 22. Dosso, Salmo 106, 33-35. Egli cambia i fiumi in deserto e le sorgenti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in luogo arido, per la malvagità dei suoi abitanti. Egli cambia il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. La vita non è sempre uguale. Ci sono momenti nei quali tutto è a favore, in altri tutto è contrario. Ecclesiaste 7.14. Dobbiamo essere preparati a accettare questi sobbalzi, o scossoni della vita, i quali producono sempre del benessere. Romani 8.28. 23. Ospedale Salmo 138, 3. Nel giorno in cui ti ho invocato tu mi hai risposto, ed hai accresciuto il vigore dell'anima mia. Ci sono certamente momenti difficili nella vita, Salmo 18.6, ma una vera fiducia e un vero abbandono alla volontà di Dio possono ridare nuove energie e nuovi obiettivi. 24. Animali Salmo 49, 20. L'uomo che vive nelle ricchezze senza avere intendimento è simile alle bestie che periscono. Ricordati che se non hai l'intelligenza di cercare Dio e di fuggire il male, Giobbe 28:28, sei simile ad una bestia. 25. Pendenza Proverbi 15:19. Il sentiero degli uomini retti è reso piano. Ricordati che quando il sentiero cristiano è troppo in salita o troppo in discesa, molto probabilmente, qualcosa non va. Se oltre le tue forze stai camminando su un terreno non adatto, per te, 1 Pietro 4.11, se è troppo facile, Matteo 7.13, dove il mondo ti incoraggia, per certo stai soffocando qualche verità cristiana. 26. Strada dissestata o danneggiata. Proverbi 3:21-23. Ritieni la sapienza e la riflessione. Esse saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando sbagli spesso, molto probabilmente stai camminando su una strada piena di pericoli. Puoi evitarne qualcuno, ma se sei saggio torni indietro se è possibile e prendi un'altra direzione. Se non è possibile tornare indietro, puoi sempre prenderne una nuova, che non abbia ostacoli. 27. Non calpestare, Luca 8:5. Un seminatore uscì a seminare la sua semente, e mentre egli seminava una parte cadde lungo la via. Fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Calpesti la parola di Dio ogni volta che l'ascolti e non la ritieni nel tuo cuore come una cosa preziosa. La strada rappresenta un luogo pubblico dove tutti hanno accesso, e se tu permetti che l'opinione o la morale del mondo calpesti gli insegnamenti che ricevi da Dio, essa ti verrà tolta. Ellero,